stiamo parlando di un tema estremamente delicato, sensibile. Nel corso del 2019 si è aperto un dibattito pubblico molto acceso sul tema del 5G e come comune di Bologna noi abbiamo scelto una strada che allora sembrava piuttosto impervia, quella di istituire un tavolo permanente sul 5G con gli operatori telefonici, gli uffici tecnici, la comunità scientifica e accademica, i portavoce dei comitati dei cittadini per mettere a disposizione della cittadinanza un patrimonio di conoscenza comune rispetto al tema del 5G. Dal nostro punto di vista è sempre stato importante evitare due estremi opposti. Da un lato, l'allarmismo dei cittadini non giustificato e non fondato su basi scientifiche e dall'altro la minimizzazione dei possibili rischi per la salute e per l'ambiente connessi all'avvento della nuova tecnologia. Poi, come sapete, anche grazie alla volontà precisa del sindaco Virginio Merola, quel tavolo comunale sul 5G è stato esteso all'area metropolitana proprio per creare anche una uniformità di orientamento all'interno dei comuni dell'area metropolitana. Noi siamo sempre stati consapevoli che la giurisprudenza, sia italiana sia comunitaria, erano contrarie alle moratorie e ai divieti generalizzati, come ora tra l'altro è stato espressamente previsto dal decreto semplificazione del luglio 2020. Tuttavia abbiamo sempre pensato che la corretta localizzazione degli impianti non significasse solo la mera applicazione della legge e del dettato normativo, ma anche un ruolo politico di concertazione con i gestori per individuare i siti più idonei per garantire la copertura del servizio e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici. Ed è così che siamo intervenuti in diverse occasioni nei quartieri per, diciamo, rispondere alle richieste dei cittadini insieme ai gestori per spostare gli impianti in una localizzazione più idonea al contesto urbano. E però eravamo consapevoli che non potevamo muoverci ogni volta antenna per antenna o comitato per comitato, ma avevamo bisogno di uno strumento di programmazione. I consiglieri comunali nell'ottobre del 2019 avevano proprio invitato la giunta ad adottare un regolamento di questo tipo e direi che in tempi non certo facili siamo riusciti ad onorare quell'impegno che oggi offriamo alla discussione dei quartieri, del Consiglio Comunale perché possa essere nel più breve tempo possibile uno strumento definitivo e operativo per il Comune di Bologna. L'articolato del regolamento, sono 20 articoli, è frutto di un lavoro complesso di mediazione del quale è giusto ringraziare innanzitutto gli uffici tecnici del Comune, gli operatori telefonici, l'Istituto Ramazzini, le associazioni, i quartieri e i cittadini che sia individualmente o nei comitati hanno formulato pareri, critiche e osservazioni. Si tratta di un unico in Italia che riprende le linee di un lavoro che era già stato avviato dal Comune di Bologna diversi anni fa e che ora prevede nuove disposizioni sulla zonizzazione, sui siti sensibili, ospedali, scuole, sul co-siting, cioè sulla co-ubicazione, sulla trasparenza e sul monitoraggio. Si parlava prima dell'apertura di un sito web per fornire dati costantemente aggiornati sull'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nell'area urbana. Noi dobbiamo cercare di spiegare ai cittadini che l'equazione più antenne 5G uguale più inquinamento elettromagnetico è un'equazione sbagliata, perché se ci fosse una violazione dei 6 voltmetro prima citati come livello più basso in Italia rispetto alla normativa nazionale ed europea, non avremmo l'autorizzazione agli impianti. E così il sito è utile come strumento per conoscere le opportunità anche sull'utilizzo delle nuove tecnologie per i servizi delle imprese e i servizi ai cittadini. Voi, come sapete, stiamo diventando una città capitale a livello mondiale sul tema dei big data e questa mole enorme di dati ha bisogno di infrastrutture tecnologiche per diventare attività di studio, di ricerca, ma anche attività industriale. Così come in questo momento la telemedicina e l'applicazione dell'internet nelle cose, nella medicina e nella ricerca medica hanno bisogno di queste reti infrastrutturali nuove. E a questo noi aggiungiamo che il sito diventa uno strumento per promuovere campagne di informazione con la collaborazione di esperti riconosciuti nel settore per un uso consapevole delle nuove tecnologie. Penso che il compito della politica, il compito dell'amministrazione che noi stiamo cercando di portare avanti anche con questo regolamento sia quello di governare le conflittualità e i diversi interessi che sono in campo e non delegare questo tema ai tribunali o alla magistratura, ma cercare di ricomporla come stiamo facendo in questo percorso. percorso in questo metodo. E penso che quando la politica mantiene le promesse, dà la credibilità e della fiducia dei cittadini nelle istituzioni, ma soprattutto nella scienza e nella conoscenza, abbiamo tutti da guadagnarci.